Ho capito. Speriamo che non capiti mai, allora, che tutto vada sempre meglio, a posto, come si deve. Bene, bene, bene, e vabbè, comunque, siamo lì per fare anche queste cose, perché li sa fare e perché li fa. Ui, ui, ui, hai sentito, Natalino si sente male, dunque no, non ne ha voglia, è l'ascolto ma non ne ha voglia, glielo comprendo. Cosa vuol dire? Già lo capisco, sì. Marco ha da fare, chiaramente Gianni se n'è andato perché è uscito di casa evidentemente a farsi un giretto, e anche lui ha i suoi diritti, ci mancherebbe altro. E noi siamo in casa, tra cui del Pacifico, tra qualche minuto io dovrò fare la terapia, lì che ti dovrò anche, tra un po' ti dovrò lasciare. Doveva uscire con signorini, Gianni. Ah, con signorini doveva uscire, no, no, no, no. No, non credo. No, di chi si affonda Gianni, no? Sono già... Ma cos'è questo? Ah, c'era. Sì. Ormai ha aumentato la radio, come si deve. Prima eri quasi, non dico muto, ma quasi. Adesso l'hai aumentata bene, proprio bene, bene. Perché vedevo lo strumento che... sono potenza 15 watt però saliva da 10, da 15 a 20, di solito sale da 15 a oltre i 60, parlando così è normale, agito macchina e accendi, e sempre la solita radio è giù, sempre quella. Ok, 15 watt si è a fondo scala qua, con 15 watt si è a fondo scala, per cui va bene. E quella radio lì sempre il mio segnale, sempre con 2 watt io, sempre come quelli degli altri, delle altre volte segna, sono i 9,20 più o meno. Sì, 9,20 modulato. Sì, caspita, per i watt che stai andando di lusso. Sì, sempre 2 watt. Due watt che poi in realtà misurato con l'osmetro, col wattimetro, cioè sono un watt e mezzo solamente, mentre invece se faccio così poi diventano, ecco, così dovrebbero essere 10, forse 12, non lo so di preciso, ma comunque è uguale, guarda, così che sicuramente qualcosina è aumentato, ma lo riporto come la prima, lo riporto a 2 watt, ecco qua, di nuovo a 2 watt. Allora, passi a 9,25, li superi, però ti si abbassa la radio, non ho capito il perché. Mi si abbassa la radio, forse l'ho troppo lontano io, vediamo un po' se è così. Mi si abbassa la radio, adesso mi sono messo come l'ho poc'anzi, perché poc'anzi era appoggiato sul comodino e adesso sono nella stessa posizione, più o meno, confermi? Fallo, aspetta che ti mando l'audio, fallo in contemporanea, attaccando e staccando, perché forse sì, magari eri girato. Sì, infatti ero girato, adesso sono così, proprio davanti al microfono, tranquillamente, aspetta che prendo la manopola, no, non è questa, se no non trovo la manopola, il baracchino è dall'altra parte, ecco, allora adesso sono così al massimo, no? E prendo questa, no, ho sbagliato manopola, ecco questa, aspetta, allora adesso sono così, sono, no? E sono sempre nella stessa posizione, con i 10 watt, adesso li abbasso e li ho portati a 2, vediamo un po' la differenza della radio. Sì, secondo me c'è la differenza. Guarda, ascoltati l'audio. Adesso lo ascolto, dai, adesso lo ascolto. Luca. Ciao Marco, dimmi. Stavo qua transitando. Ho detto, conta che quello di giugno credo che non sia aperto di modulazione. Il mio l'avevo aperto. Quindi sia al minimo che al massimo la modulazione rimane tale. il suo è, diciamo, limitato, credo che sia originale, vero Giulio? Sto ascoltando l'audio che gli ho mandato, perché a me mi è sembrato così, infatti gli ho mandato l'audio in contemporanea, ho detto, ma quando mai? Quando aumenta, sì, aumenta il segnale, ma gli si abbassa la radio. Aspetta, Giulio, parla che Luca ti ha annullato. Ho detto che stavo ascoltando l'audio adesso, no, infatti sentirai sottofondo l'audio. No, io non l'ho mai aperto, non l'ho mai tolto il tappo addirittura, mai, per cui non so nemmeno come è fatto dentro, cosa c'è o cosa non c'è, non lo so, no, io lo tocco, io lo lascio così com'è. Vabbè sì, però io ha migliorato tanto, quello, il mio, vabbè, marcato Intec, ma è lo stesso apparato, perché mi dicevano, ma la modulazione io lo usavo sempre qui a 12 watt, no? Se non è un granché, è limitata, io mi ero buriato, usavo anche il mic originale, figurati. No, aspetta che non è finita, a parte la modulazione aperta, perché tanto non è omologato, quindi non ha senso lasciarla chiusa, il guadagno microfonico da dentro, no? Io avevo liberato da quella spugnetta terribile anche il microfono, perché la Intec, non so se è uguale identico al tuo, però la Intec aveva messo questa spugnettina super pressata, si è tolta, di vedere che spessore aveva, l'aveva super pressata e il microfono era veramente soffocato. Invece poi togliendo la spugnetta e aumentando la cosa, era cambiato molto molto in meglio, però la tua modulazione in realtà va bene così, non è che ci sia tutta questa necessità. Vai Giulio. Sì, ho capito. No, ma c'è da dire anche questo, che io ho una batteria, tu non mi crederai, ma questa batteria in questo microfono ci saranno almeno 3 anni. Un leggero fruscio con la potenza bassa. Probabilmente quando ne ho più watt, essendoci più potenza, ha bisogno di più alimentazione anche il microfono. Non lo so, però nel video Luca non ho notato nessuna differenza di radio. In una maniera o nell'altra è sempre uguale, Luca. Ma Giulio, hai detto batteria? Ah, non è il mic originale quello però. Scusa, o credevo che fosse il mic originale dell'apparato. No, è l'MD-4, io uso sempre l'MD-4 da anni, però questa batteria ce l'avrò almeno qui in questo microfono almeno 3 anni, se ti puoi immaginare, non l'ho mai sostituita, mai. Eppure non sembra, Giulio, un microfono amplificato, boh, cosa dici Marco? A me, io ero convinto che era un microfono palmare. Te l'ha già detto, è tutto, c'è il dentro, è tutto chiuso il guadagno microfonico. Capito? Che poi non ho capito perché se l'apparato non è omologato lo fanno tutto chiuso. È come l'FM, è tutta chiusa. E quello è un apparato di un certo tipo e allora apriti tutto. Però vedi adesso ti dico la fregatura mia. Io l'MD+5 non lo posso usare messo vicino, perché se lo metto vicino l'apparato mi fischia, rientra un po' nell'altoparlante, cioè anche se lasci il monitor a zero, cioè proprio il monitor, il talkback, no, così si chiama, lo disattivi proprio, però quell'apparato lì c'ha sempre un leggero rientro nell'altoparlante, quindi se lo metto vicino mi fischia, e questo presumo che sia perché gli ho aumentato comunque la modulazione, e quindi io uso solo mic normali in quell'apparato, capito? E in realtà anche su tutti gli apparati, uso quello di serie alla fine, la MB5 è nell'armadio a piglia al polvere, prendi Giulio. Ok, sì, ripeto, ma è la batteria, sicuramente è la batteria che scaricami, adesso tento di cambiarla, vediamo un po', datemi 2 minuti che cambio la batteria e vediamo un po' se è proprio quello il problema. Ma l'amplificazione ce l'hai al massimo giù? No, non è al massimo, ecco, così è al massimo, c'è stata qualche differenza? No. Appunto, sì, che bene, adesso è a... così è a 3, così è a 3, va bene così? No, sì, la voce c'è, però pensavo che di sentire più amplificazione, più rumori, sai, di fondo, qualcosa del genere. No, qui il rumore di fondo non ne potrai mai sentire, perché io sono in una stanza isolata al piano di sopra, dunque i miei sono giù, per cui rumori eccetera eccetera eccetera non ne puoi sentire. sentire, al massimo puoi sentire qualcuno che passa, qualche macchina che passa, perché c'è la porta della finestra che è aperta, la porta finestra. Ecco, praticamente sì, così, ecco, così sì. In questo così, capito? Ah, Giulio, poi il mic gain che è da menù, tu non sai a quanto è, sia a metà, sia a tre quarti, sia al massimo? Ma non lo so, mic gain questo non ne ha. L'impostazione credo che sia a 63 al massimo. Aspetta che cambia, metto il microfono normale, vediamo se c'è differenza tra questo e il microfono normale. Aspettate un attimo. Sì, confermo comunque. Il valore di fondo scala del mic gain che è da menu è 63. Non so perché abbiamo scelto questo tipo di valore, anziché mettere una scala da 1 a 10 o da 1 a 100, ma 63, vabbè. Quindi il fondo scala è quello comunque, sì. Ma 69 è meglio. Amplificare di più. E lì ci vuole anche un po' di maestria, Guarda, ti ho mandato un messaggio, Marco, quando puoi così passi e te la prendi quella roba. Il telefono, aspetta che non so manco dove sia. Adesso mi devo fare il giro delle stanze, aspetta, cercare il telefono. Vabbè, dai. E quindi, vabbè, già ho spiegata la storia, no? E quell'apparato anche altri l'hanno detto, forse tutti di quella serie. A un certo punto se le aumenti i parametri, però io ho tarato per usarlo col mic normale, a me interessava quello. L'amplificato è molto relativo, dai. Non ne uso perché magari... tu dicevi, Luca, il soffio. Sì, sento un soffio, però siccome Giulio arriva a 8,5 di segnale modulato 9, credo che fosse un soffio dovuto anche al segnale non proprio alto, diciamo, non proprio forte. Poi io lo so cosa, uso un volume di ascolto molto molto basso qua, per cui se non avessi alzato il volume manco me ne sarei accorto. Questo è il microfono normale, come molta differenza c'è tra questo e l'altro. Mi pare proprio da come così, come ti chiamano, Marco? Allora Giulio, quello normale è un po' più citofonico, è una cosa che ho notato anche sul mio, perciò ho dovuto liberarlo da quella spugnetta. Nota bene, ho tolto la spugnetta ma ho lasciato quella membrana, una membrana trasparente, no, praticamente una retina fitta, no, in modo da non far entrare gli sputazzi, ecco. Invece ha migliorato quell'apparato mettendo il classico DMC 507, microfono a saponetta della Lafayette, bello aperto, bello modulazione corposa, è tutto lì, dai. Quindi Giulio, ripeto, un po' citofonica, un po' più nasaletta te la fammi. Ho capito, sto cambiando la batteria e metterò di nuovo l'altro. Eia. Vabbè signori, dai, le spiegazioni ve le ho date, io scompaio nella notte come ho fatto prima. E quindi Luca, riprendete pure, riprendetevi salutati e un bacione, ciao. Ciao Marco, e adesso chiudo anch'io subito, preparare su papaio. Ma non arrostisci, soprattutto per la sera arrostisci, se no che mi mandi salsiccioni, coso, pollo arrosto, di tutto. Adesso mi arriva il caldo, una volta a settimana, non sto mangiando più come prima assolutamente. Ho eliminato anche il pane. Con questa cosa che mi è successa, purtroppo i gusti non li sento più come una volta, sento insipido, sì, che anche quello che mangio alla fine ti fa un po' coso, capito Marco? Guarda, per carità, oggi ho visto un video che non so, la von der Leyen e quegli altri boioni europei mi hanno interpellato in una sede per questa storia dei vaccini e non si sono nemmeno presentati, cioè la loro faccia di culo, posso dirlo, non l'hanno manco fatta vedere, hanno mandato direttamente gli avvocati, capito? Per carità, guarda, una burletta è stata. E loro andrebbero presi e messi al muro. Vabbè, lasciamo perdere, dai. Poi ci dicono che siamo Novax, capito? Allora, questo adesso con la batteria nuova, com'è adesso? Ah, ma sì, che c'è una gannonata, a parte l'alternata. Vai, PTT. Sì, perché l'ho dovuto anche allontanare dalla radio, sì. Così non ce ne dovrebbe essere. Ah no, l'alternata c'è, perché c'è il coso, come si chiama, l'alimentatore delle cose, delle batterie del telefonino. Eia, adesso è un po' più pimpante, dai, vabbè che io sono col volume sempre alza bassa, adesso non l'ho tenuto costante come prima, però sembra più teccia la modulazione. Luca c'ha l'orecchio più allenato. Vai Luca. No, adesso sì che è amplificato. Caspita. Ah sì. Infatti io pensavo fosse un microfono normale, stessi usando. Quando ho detto l'MB più 4 ho detto ma l'MB più 4 non spinge così poco. Ah, ma la modulazione mia che preferivo di Giulio era con l'altra radio, già lo sappiamo. Lui con quella non ce n'era, con quella, poi con la sua voce aveva una timbrica allucinante. Era una gannonata di San Radio, nel santo Giulio, si era venduta. Le mani ti dovevi pestare. Eia, va bene. Adesso alternato non ce ne dovrebbe essere, perché ho saccato la spina dell'alimentatore del caricabatterie. Sì, mi sembra che c'è lo stesso. Parametro importante solo. Ecco qua. Oppure abbasso così. Ho abbassato un po' il microfono, così. Ma si sente qualcosina, quando parli no, solo con la portante sente tipo una ventolina forse. Ah no, cosa c'è allora? Ah, caspita, c'è la radio qua, c'è la radio digitale, sì, c'è la radio vicino praticamente, sullo stesso tavolino, c'è la radio digitale, oh Luca. Ah ecco, e l'altra volta ti ho detto passa che ti do quel filtro, quando ti capiti. Ce l'ho sempre qua, ce l'avevo messo a parte. Sì, già passo, appena che capito, se mi ricordo già passo. E se aumento così, adesso il microfono adesso è al massimo. Cosa ha cambiato? Bella, una bella forte. Capito, te l'ho detto, la batteria era, perché te lo sto dicendo, non ci credi. Ti ho detto che questa batteria ce l'avevo, almeno 3 anni. E nonostante tutto funzionava. Io scommetto che con la batteria dopo la misuro col tester. Avrà se no, esagerando avrà se no 4-5 volte, non di più, altri che 9. Figurati. Perché poi rimane collegata. Caspita, ha voglia, per usarlo tutti i giorni ti è durata? Caspita se mi è durata, altro che ha voglia. Una di quelle batterie, comprata qui al negozio di alimentari dove andiamo noi, dai. Comprata lì l'avevo, e adesso l'ho ricomprata uguale, infatti la stessa marca e tutto. Che marca è questa qui è ITXD, c'è scritto, no, quella IT, MXD, cosa vuol dire poi? Non lo so, alcaline comunque. Sì, no, io già da un bel po' di tempo sto usando sia l'istilo che quelle da 9 volte tutte ricaricabili, addirittura ne ho 2 ricaricabili tramite l'USB del cellulare, dietro nel fondo c'ha l'attacco USB e ho visto che durano, caspita. Sì, adesso l'ho messo a 5, adesso è a 5, 1, 2, 3, 4, 5, il microfono è a 5 adesso, va bene così come adesso? Sempre bella forte. E allora lo posso usare così consuma anche meno batteria, no? Beh sì, quello sì. Va bene, dai, vi devo lasciare, che sono le otto quasi, un minuto ci vuole, 2 minuti alle 8. Devo andare a fare la terapia, dai. Tu, mi dispiace, ma te devo lasciare. A te e a Marco, ci sentiamo. Ti lascio con Marco. Ciao, grazie per la chiacchierata e ci sentiamo domani eventualmente. Dai. Ciao Marco, grazie anche a te per la chiacchieratina. Alle prossime. Riprendi pure lui, ascolto finale e chiudo. Sì, mi sa che Marco ha chiuso però. Mi sa che ha chiuso. Chiudo anch'io. Anch'io. Ci sentiamo alle prossime, se capita domani. Ciao ciao, buona serata.